giornale radio del Friuli Venezia Giulia. A Trieste almeno 12.000 persone al corteo per Varsila, mercoledì vertice al Mise con il ministro Giorgetti. Sul caso Resinovic, circo mediatico di sedicenti esperti. Questa la replica del procuratore De Nicola, chi confuta le indagini. A Maniago la coltelleria fattura 60 milioni di euro, numeri in crescita anche se fiaccati dal caro energia. Calcio Serie C, il Pordenone spugna il Rocco e batte la Triestina 2-0. In A l'Udinese ospita oggi la Roma. Basket, nel precampionato Venezia si impone su Trieste nel Memorial Paietta di Udine, terzo posto per APU. 8:31 minuti di domenica 4 settembre, buongiorno da Maria Spezia e Rita Micoli. Subito il meteo, il cielo è sereno, poco nuvoloso, alle 8 c'erano 20 gradi a Trieste, 19 a Pordenone, Udine, a Gorizia 18 gradi, a Tolmezzo 15 gradi, a Tarvisio 14, a Forni di Sopra e sul Piancavallo 10 gradi, a Sappada 9, 10 gradi sul Monte Zoncolan, 9 sul Lussari, a Lignano 20 gradi, a Grado 19, temperatura del mare 24 gradi. Le previsioni dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale per oggi: cielo sereno, poco nuvoloso al mattino, variabile nel pomeriggio, quando non sarà esclusa la possibilità di qualche locale rovescio o isolato temporale, più probabile in montagne sulle zone orientali. Venti a regime di brezza. In primo piano la manifestazione di ieri pomeriggio a Trieste in difesa dei lavoratori Varsila. Ieri il ministro del lavoro Orlando ha promesso un emendamento per rallentare l'uscita delle multinazionali che, proprio come Varsila, intendono lasciare il nostro paese. Un corteo senza fine di lavoratori, ma soprattutto di gente comune. 12.000 persone secondo la questura, 15.000 per gli organizzatori, tanti, più di quanto fosse lecito attendersi. La risposta della città c'è stata, Trieste ma non solo, presenti lavoratori da Monfalcone, Pordenone e Firenze. Sul palco i gonfaloni dei comuni, uniti nella lotta con diversi sindaci in sfilata. Non mancava nemmeno il vessillo di Confindustria, che dall'inizio della vicenda ha preso le parti dei lavoratori. C'erano anche i portuali, che stanno aiutando i dipendenti Varsila e quelli dell'indotto che rischiano il posto, con uno sciopero mirato a boicottare tutte le attività logistiche legate alla multinazionale finlandese. Significativo il momento in cui due rimorchiatori sono arrivati davanti alle rive in segno di solidarietà, hanno suonato le sirene ricevendo un applauso di rimando. Dalla piazza giunge un messaggio di unità, insomma. Il prossimo passo prevede il tavolo al Ministero dello Sviluppo Economico mercoledì, presieduto dal ministro Giancarlo Giorgetti. Ci sarà anche il ministro del lavoro Andrea Orlando, che incontrando i lavoratori al presidio davanti al sito industriale ha annunciato la presentazione di un emendamento che potrebbe allungare anche i tempi di questa procedura, che potrebbe terminare con il licenziamento di 451 dipendenti diretti, senza considerare l'indotto, a causa della chiusura della produzione che viene riportata in Finlandia. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. In corteo lavoratori, cittadini, esponenti del sindacato, amministratori, sentiamo le voci di Roberto Benaglia e Michele De Palma, segretari dei metalmeccanici di CISL e CGL, e ancora prima quella del presidente della regione Massimiliano Fedriga, che ricorda come la regione si stia opponendo anche in sede giudiziaria alla decisione del gruppo finlandese. Perché oggi l'azienda presenta un piano e se gli attori coinvolti, cioè parti sociali, il Mise, la Regione, dicono non va bene, se formalmente a posto, non abbiamo armi per impedire una delocalizzazione che non porta a una reindustrializzazione dell'area. Noi diciamo di no ad una delocalizzazione fatta a tradimento, fatta a freddo, che non ha al momento motivazioni. Non è un'azienda in crisi, non è un'azienda decotta, non è un prodotto che non tira perché sta vendendo sui mercati. Ora è il governo che deve fare la sua parte. Il Presidente del Consiglio deve chiamare Varsila e deve immediatamente fermare, chiedere a Varsila di fermare il processo che ha messo in corso. Stoppare i licenziamenti, ritirare i licenziamenti e aprire un tavolo vero di discussione. Perché la città di Trieste, ma fatemi dire, qui non si gioca la partita soltanto per la città di Trieste, si gioca una partita per tutto il paese. Sul caso Resinovic, ieri la dura presa di posizione della Procura di Trieste dopo la pubblicazione sui social di alcuni video nei quali compaiono stralci di una perizia, radiografie, scansioni tacche, lunghe disquisizioni sulla morte di Liliana. I video mirano a confutare l'ipotesi di suicidio formulata dalla Procura giuliana. Spiace dover constatare come, accanto alle indagini doverosamente scrupolose che la Procura sta conducendo, ha scritto il procuratore capo di Trieste, Antonio Antonio De Nicolo si stia svolgendo una serie di processi mediatici paralleli, nutriti da qualche notizia vera e rilevante e da non poche notizie false e irrilevanti, manipolate da sedicenti e esperti e orientate verso risultati non convalidati dagli atti regolarmente acquisiti al fascicolo processuale. Risultati in crescita per il settore della coltelleria maniaghese, ma anche le aziende della destra Tagliamento patiscono il rincaro dei prezzi dell'energia. Si può vedere da vicino come nascono i coltelli famosi in tutto il mondo nella due giorni di Coltello in Festa che a Maniago celebra l'arte fabbrile. Lungo le vie del centro, la grande mostra a mercato delle coltellerie maniaghesi, dimostrazioni dal vivo e l'esposizione dedicata alle lame d'autore. Paola Fantin, Museo dell'Arte Fabbrile delle Coltellerie. Questo fine settimana celebra 600 anni di tradizione fabbrile maniaghese, dalla derivazione di un canale a metà del 400, oggi un comparto che conta circa 70 aziende. Il settore conta più di 500 addetti, un fatturato di 60 milioni di euro, numeri in crescita anche se fiaccati dal caro energia. Federico Coassin, presidente del consorzio Coltellinai Maniago. Il mercato continua a tirare, anche se qualche piccolo segnale comincia a provenire. Il prodotto di fascia alta-alta comincia a perdere colpi a vantaggio del prodotto medio, ma nel complesso le aziende sono tutte ancora cariche di ordini. Oggi come oggi però ci pesa notevolmente il caro energetico. Maniago, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Ultima tappa della carovana dei ghiacciai di Legambiente sul ghiacciaio del Montasio, l'unico rimasto in regione, ce ne parla Wanda Bonardo, responsabile Alpi dell'associazione. Il ghiacciaio del Montasio tutto sommato è quello che ha resistito meglio rispetto ad altri ghiacciai, per quali fattori? Sì, è un ghiacciaio resiliente perché ci sono delle poretti che lo proteggono, esposto a nord, e poi in queste zone nevica moltissimo e soprattutto riceve l'accumulo delle valanghe, quindi una condizione un po' di privilegio rispetto ad altre situazioni. Anche in un anno particolare come questo che abbiamo vissuto, un'estate come questa che abbiamo vissuto? Sì, gli esperti ci dicono che tutto sommato ha sofferto, ma non tanto, e non è assolutamente da paragonare a quel che abbiamo visto sugli altri ghiacciai alpini. Quindi è un ghiacciaio che si sta mantenendo da 15 anni a questa parte nelle dimensioni e nel volume attuale e sembra che riesca a mantenersi ancora per un po' di tempo, sempre che le condizioni non cambino completamente, perché se le temperature aumenteranno, anziché avere neve avremo pioggia, e allora anche a questo punto anche un ghiacciaio come il Montasio sarà costretto a svanire. Invertire la tendenza come? Riduzione dei gas serra e passaggio alla neutralità climatica, diciamo al 2050. Udine, Elisabetta Zaccolo, TGR, Friuli Venezia Giulia. Passiamo allo sport, iniziando dal calcio e con il derby di Serie C di ieri sera. Apertura di campionato con il match Triestina-Pordenone. I neroverdi hanno espugnato il Rocco battendogli alla Bardati per 2-0. Va al Pordenone il derby nella prima giornata di Serie C al Rocco davanti a 6.500 tifosi e finisce 2-0 per la squadra di Di Carlo in una partita fisica dai ritmi agostani che comunque ha offerto spunti e qualche occasione da gol. A decidere un bel gol di Deli al 55esimo su iniziativa di Magnaghi. Il trequartista neroverde di destro batte l'ottimo Mastrantonio in uscita. Al 90esimo il raddoppio di Piscopo che gira di destro in rete. Un bell'assist di Biondi. Più Pordenone che Triestina nel primo tempo. Bonatti, preoccupato dalla regia di Burrai, schiera un difensore, l'ex Sabbione, sulla linea di centrocampo. La mossa paga difensivamente sulle palle alte, ma il capitano Labardato non ha i tempi di gioco in costruzione. Nei primi 45 minuti poche occasioni. Furlan per la Triestina dà solo l'illusione del gol sotto la quasi omonima curva. Poco dopo Aieti di testa spaventa la difesa dei padroni di casa. Nel finale Sottini da pochi passi sbaglia il gol del vantaggio sul rimpallo. La ripresa la Triestina la comincia l'attacco sulla catena di sinistra, ma errori tecnici e un'area sempre vuota non creano azioni da gol, che invece arrivano per la squadra di Di Carlo. Mastrantonio para su Torrasi al 47esimo. Deli al 55esimo invece fa esultare i 160 tifosi arrivati dall'addestro Tagliamento. Bonatti prova diversi cambi ottenendo poco. Aieti in difesa è un leader che ferma tutti gli attaccanti alla Bardati e fisicamente il Pordenone ne ha di più. Al 60esimo Zammarini da fuori sfiora il raddoppio. Dopo una traversa di Burrai su punizione, Gori chiama festa a negare il pari. Nel finale il 2-0 del subentrato Piscopo per la gioia del presidente Lovisa. Trieste, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia. In Serie A l'Udinese oggi ospita la Roma, al Friuli calcio d'inizio alle 20:45 contro la squadra di Mourinho. Mister Sottil vuole dai suoi grinta e concentrazione, sentiamolo. Chiaro che quando si vince poi soprattutto si fa risultato pieno attraverso una grande prestazione, ti dà un'iniezione di consapevolezza dei mezzi, di autostima incredibile, ma soprattutto di grande entusiasmo, di grande serenità. Bisogna archiviare, noi abbiamo archiviato, pensare subito, proiettati subito con la Roma e fare assolutamente una prestazione ancora migliore di quella che abbiamo fatto. Squadra forte, squadra molto forte, una squadra è stata rinforzata con calciatori di alto livello in tutti i reparti. Lo sappiamo, però, come sempre, grande rispetto per la Roma, e però noi siamo in casa e dobbiamo continuare sulla nostra identità, cioè giocarci la nostra partita. Passiamo al basket. Reyer Venezia ha battuto la Pallacanestro Trieste per 99-81 e vinto il trofeo del Memorial Paietta di Udine. Apo Old Wild West Udine ha vinto la finale per il terzo posto per 77-71 contro Real Mutua Torino. E ancora basket con il Memorial Bortoluzzi di Lignano. Gesteco Cividale ha battuto nella finalina i croati dello Škrljevo per 77-67. Nella finale Forlì ha battuto Rimini per 72-61. Rally del Friuli Venezia Giulia. Andrea Crugnola, già leader del campionato italiano assoluto, vince per il secondo anno consecutivo con Gabriele Zani su Citroen C3R5 la storica corsa già rally delle Alpi Orientali, è arrivato quest'anno alla 57esima edizione. Seconda posizione al trevigiano Marco Signor, terza piazza per un altro trevigiano Edoardo De Antoni, foratura durante l'ultima prova speciale per il Friuli Friulano Filippo Bravi, in quinta posizione l'altro friulano Claudio De Cecco. Nella gara historic vittoria assoluta al siciliano Angelo Lombardo su Porsche 911. Per il ciclismo oggi gran finale del Giro della Regione Friuli Venezia Giulia con la quarta e conclusiva tappa di 152 km da Trieste a Udine, partenza dal Porto Vecchio poco prima delle 12.30, arrivo in piazza Primo Maggio alle 16. Alla partenza i migliori talenti del ciclismo mondiale della categoria Elite e Under 23. Campionati mondiali Under 19 e Under 17 di pentathlon moderno a Lignano, attesa una partecipazione di 30 nazioni e 500 atleti. 22esima edizione il volo dell'Aquila, memoria Erwin Mayer a Paluzza, la gara di corsa in montagna internazionale in salita di 11,5 km, aperta a tutti con arrivo a Malga Pramosio. Partenza gara alle 9.30. E adesso andiamo a Grado, dove oggi è protagonista il triathlon. Sentiamo. Tutto esaurito al triathlon olimpico di Grado con 570 partecipanti, donne al via con un anticipo di 20 minuti sugli uomini. Prima frazione 1500 metri di nuoto, ad uscire per prima dall'acqua Erika Mazzer, padovana, seguita da Claudia Carmela Paladini, leccese studentessa a Padova, due amiche in uno stupendo duello. Nel maschile fa subito il vuoto Alessandro Fabian, padovano 34enne ex campione italiano, poi Stefano Rigoni, secondo nel 2021 e Federico Spinazzè, vincitore lo scorso anno. Cambi velocissimi e poi via in bicicletta per 40 km tra il verde di Fossalon. Tra le donne la coppia Paladini-Mazzer prosegue in testa senza problemi, mentre tra gli uomini Fabian continua la progressione incrementando il vantaggio a 2 minuti su Rigoni. Nuovo cambio per la frazione di corsa, 10 km nella cornice storica di Grado. Claudia Paladini alza il ritmo e dimostra che a soli 21 anni ha grandi margini di miglioramento. Conclude in 2 ore 5 e 17, seconda Erika Mazzer, terza Martina Dogana, ex campionessa italiana. Sempre solitaria la corsa di Alessandro Fabian, per lui 1 ora 46 e 30, nuovo record del triathlon di Grado. Secondo posto per Stefano Rigoni, terzo Michele Marchelli del CUS Pro Patria Milano, presenti atleti da Slovenia, Austria, Germania, Svizzera e Svezia. Grado, Maurizio Mervar, TGR Friuli Venezia Giulia. L'irrigazione per migliorare la qualità della viticoltura è il titolo del convegno in programma a Manzano dalle 9.30 nell'antico Folle d'Or Boschetti della Torre. Partecipano la presidente del consorzio Bonifica Pianura Friulana, Rosanna Clocchiatti, il presidente di Confagricoltura Udine, Giovanni Giavedoni, e Paolo Valle, presidente del consorzio Tutela Vini Friuli Colli Orientali e Ramandulo. E adesso passiamo ad alcuni appuntamenti con gli spettacoli per la musica. Maratona musicale per l'inaugurazione della nuova Agorà del Friuli a Rivignano dalle 15 a Notte Fonda, sul palco alle 21 Roberto Vecchioni. Pasolini e il mito di Pasolini è il concerto narrato dell'Orchestra Giovanile Filarmonici Friulani a Pordenone al Parco di San Valentino alle 18. Per gli spettacoli, lo storico incontro a Venezia tra Pasolini e il poeta americano Ezra Pound al centro dello spettacolo Pasolini Pound Odi e Tamo a San Vito al Tagliamento alle 20:30 all'Auditorium Comunale. Il sogno di una cosa è lo spettacolo ispirato al romanzo di Pasolini di e con Marco Bagliani a Villa Caccia di Lestizza, l'agriturismo ai Colonos alle 17:30. Giornata conclusiva oggi per la Sagra degli Osei di Sacile, la manifestazione ornitologica più antica d'Europa a Fagagna, la tradizionale Corsa degli Asini, 132esima edizione alle 16:30, ultima giornata per la rievocazione storica del Medioevo di Valvasone a Palma Nova, Palma alle Armi per rivivere la storia rinascimentale della fortezza. 8:46, diamo inizio alla rassegna stampa dei quotidiani oggi in edicola. L'apertura e la fotonotizia del Piccolo di Trieste sono per la manifestazione dei lavoratori Varzila. È in tema, in prima pagina compaiono anche altri titoli, uno sui partecipanti, dal vescovo alle istituzioni di categoria, un altro sulla visita del ministro Orlando e poi uno con i commenti di solidarietà dei numerosi manifestanti, oltre all'articolo sulla presenza anche delle pensionate dell'azienda intervenute per esternare solidarietà e anche sconcerto. Infine c'è un servizio con i prossimi sviluppi della vicenda, iniziare da quello di mercoledì con il tavolo al Ministero dello Sviluppo Economico. Capocronaca interno, le difficoltà delle associazioni sportive, dal caro bollette alla ridotta capacità economica delle famiglie. Spazio poi a un bilancio dell'attività estiva della linea marittima Trieste-Grado a fronte di una crescita del 5% del traffico rispetto allo scorso anno. L'80% delle abitazioni disperde energia e calore, l'apertura del Messaggero Veneto di Udine. Nella fotonotizia Marina Puntafaro di Lignano, che passa un fondo straniero con sede in Grecia ma testa in Lussemburgo. Di spalla riapre a Udine Piazza Marconi, avrà la statua dello scrittore Sgorlon. Sotto banconote in strada un anziano le raccoglie, trova il proprietario. E ancora, anziana minacciata in casa alla tisana da tre incappucciati. Sul Gazzettino SS e bollette, 150 richiesta a settimana. Nella fotonotizia Udinese contro la Roma a testa alta, anche qui l'anziana che si è trovata faccia a faccia con i tre ladri in casa, di spalla la politica e i comitati a difesa dell'ospedale di Gemona, ieri flash mob ed esposto alla procura. L'edizione di Gorizia del Piccolo come capocronaca interno un reportage sulla situazione dei negozi nel centro. Sono inattivi 4 esercizi su 10, ma c'è anche una nuova apertura in Corso Italia di un negozio che vende filati. Altro reportage, quello sulla bonifica dei rifiuti bruciati all'ex Bertolini nell'incendio dello scorso novembre. Per ora è stato rimosso solo un terzo del materiale. Da Monfalcone per la cultura la mostra Crali Aeropittore, sempre futurista, in allestimento alla Galleria d'Arte Contemporanea fino al 25 settembre, con apertura anche pomeridiana nel fine settimana. 3 le opere inedite prestate sia dal pubblico sia da privati. Da Grado le numerose multe inflitte ai ciclisti sul lungomare a fronte dei divieti stabiliti con l'ordinanza dello scorso maggio, a cui però non sono corrisposte contravvenzioni per monopattini elettrici a causa della mancata fissione di segnaletica dedicata. Sul Gazzettino di Pordenone la fotonotizia per la vittoria nero-verde sulla Triestina ieri allo Stadio Rocco, poi un titolo per i danni della siccità, l'agricoltura perde più di 500 milioni. Di spalla c'è la Sagra dei Osei e una truffa ad un'anziana affanna. Sul Messaggero Veneto nella fotonotizia una task force per rimuovere gli alberi dal Noncello, di spalla manca l'addetto, il servoscala alle poste di Porcia non è utilizzabile. Poi un cantiere aperto vicino alla Sagra dei Osei e il sindaco di Sacile si infuria e oggi a coltello in festa maniago lo chef televisivo Bastianich. Per gli appuntamenti odierni, la restanza dei cervelli in fuga è l'ultimo appuntamento della rassegna Vicino Lontano Mont con Claudio Moretti, Fabiano Fantini e Elvio Scruzzi a Tolmezzo al giardino del Museo Carnico alle 18. 3 esemplari di grifone saranno liberati oggi nella giornata internazionale degli avvoltoi a Forgaria, la riserva naturale del Cornino, alle 17:30. Ed è tutto per questa edizione del giornale radio regionale, in regia Carlo Morello, in redazione Cristina Polselli, da Maria Spezia e Rita Micoli. Grazie per l'ascolto e ancora l'augurio di una buona domenica.